l'IRAP viene separata completamente dal bilancio, così si spera che si smetterà di fare confusione tra l'IRAP e l'imposta sui profitti, sono due cose diverse. E l'IRAP, la cui aliquota pure cala al 3,9 dal 4,25, diventa sempre più chiaramente un'imposta regionale. Noi qui stabiliamo che la dichiarazione vada fatta alle regioni, ma in un tavolo con le regioni, il prossimo, uno dei primi argomenti di discussione sarà proprio la devoluzione completa di questa imposta alla regione, in modo da non fare più confusione. No, cioè, e dico, l'IVA esiste perché esiste il titolo quinto e perché quindi anche le regioni devono avere le loro imposte autonome, mentre adesso tutti pensano in termini di un potpourri incredibile. La cosa divertente è che facendo i conti alla fine noi pensavamo di portare la liquida al 28, siamo riusciti a portarla al 27, al 27,5. Se si abbassano, si abbassa la liquida dell'imposta sulle società, la tassazione complessiva su quello che va al socio deve rimanere lo stesso, e quindi è chiaro che se si riduce una aumenta l'altra e viceversa.